Zodi 105. Quelle quattro non mi rompere le palle perché c'è lo Zodi 105. L'unico programma dove c'è gente che parla come me. Lo Zodi 105. Con i soldi dei politici paghiamo il debito italiano. E se non bastano ti dico io come facciamo. Paghiamo queste tasse di merda, saldiamo il debito. Con le puttane, con l'erba.